24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani, già. L'ha capita? Allora, farò un master in bersanese. Masteristi, buongiorno, cari italiani, sono le 6:33 minuti, è venerdì, il nostro alpino Peter Bescapelli in regia. Ah, sospira ed esulta perché è venerdì e poi per una settimana prossima credo avrà un altro turno, non si sbranderà alle 3 del mattino, quindi è felice. Mentre Miriam Lucchetti è lì invidiosa, che dice invece io mi sveglierò sempre a quest'ora, va bene, insomma siamo qui fino alle 9, come sapete è l'ultimo giorno della settimana per quel che ci riguarda e quindi l'ultimo giorno che ci fa propinquare al weekend col solito spirito. But please relax. Come sempre, no? Che mancano 20 giorni più o meno alla campagna, alla fine della campagna elettorale, al voto, e come al solito possiamo aprire il nostro bar, sì, sulla Claire e Nicole Minetti che offre sempre Nicole Minetti. Avete finito di rompere le palle con la Minetti, è la Minetti, sempre la Minetti, non sapete parlare d'altro, andate a lavorare, Belandroni. Ho capito, basta, veramente. Ha rotto le palle questa, sinceramente. Vabbè. Allora, voglio salutare Alessandro Giglioli. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti, ben svegliati. Con il suo Piovo Norane, il suo blog seguitissimo. Ma da tantissimi anni che hai Piovo Norane. 2005, si fanno 8 anni quest'anno. Sì, cioè, sì. Più o meno come Beppe Grillo hai iniziato. No, è arrivato prima lui. Credo. È arrivato prima lui. Vabbè, stiamo cercando di metterci in contatto, ma non ce la faremo, te lo dico subito, con Edward Luttwak, per tua somma piacere, insomma, avremmo... Ci litigo sempre volentieri. Sì, ma non so, ci ha detto che era in Italia, in America, e non si sa, è etereo Luttwak, vaga qua e là, e insomma, va qua e là, ma non si capisce bene mai dove sia. Allora, da cosa vogliamo partire, Alessandro? Da cosa vuoi partire? Dal Monte Paschi Siena? Ti voglio far partire? Prometto che tu vuoi partire dalla Liguria, così ho visto i tuoi tweet stamattina. Mi sono convinto che vuoi partire dalla Liguria, no, vero? Ma in realtà è la regione Lombardia, è un po' la Liguria, vabbè. Allora partiamo da questo. Allora, la carta igienica, hanno rimborsato anche la carta igienica. Ora uno che battute può fare? Se un consigliere della Lombardia si fa rimborsare la spesa alla Coop, tra cui la carta igienica, che battuta ti viene così istintiva? A cosa servirà questa carta igienica? D'accordo che l'ora è quella che invita a questo tipo di attività, tuttavia non... Ma c'è... Non facciamo coprofilia a quest'ora, per carità. Io credo che questa vicenda dei rimborsi scateni, come dire, due reazioni uguali e contrarie, no? Sì. La prima è quella che hai tu, che è sacrosanta. La seconda è quella che ho io, cioè non ne basta, non ne voglio sentire nemmeno parlare. Ma no, come non ne voglio? Non la faccio più. Come basta? Ma se dici basta, evochi assolutamente un altro tuo amico, Oscar Giannino, anche noi, guardate. Allora lo diciamo anche noi, basta a sto punto. Perché se lo dici, tu... No, è uno stillicidio, no? Se partiti col libro della Minetti che si faceva rimborsare il libro Mignottocrazia, siamo arrivati... alla Nutella, alla carta igienica. Vabbè, però l'hai evocata, quindi bisogna... Basta! Eccolo lì. Allora, io capisco, cioè uno... Io sono stato esposto anche delle critiche, qualcuno ieri mi ha criticato a dire ma basta, insomma, queste spese di un euro, due euro, ma chi se ne frega, se uno si fa rimborsare un euro di un biglietto di un tram, come ha fatto Chiara Cremonesi di Sell, bene, vuol dire magari è andata a fare qualcosa di istituzionale e non ha preso il taxi, quindi abbiamo risparmiato 10 euro. Sì, ma voglio dire, penne, poster, io scrivo, non so, penne, poster su Twitter, il rifacimento chiavi di Stefano Zamponi, Italia dei Valori, 16 euro, o il poster 13 euro, 74 euro al supermercato, ma io le metto così come voci, ma sai qual è il totale rimborsato di vari anni a Zamponi, per esempio, che ora è sotto la lente di ingrandimento? 137.000 euro. Quindi non è che è chiaro che le spesucce sono quelle che fanno colore, come la Nutella. Oggi Carlo Spreafico, sai cosa ha detto al Corriere della Sera? Nutella, vergognarmi, mai, mai lo farò. Avrò offerto una piadina con la Nutella a qualcuno e va bene, non è che dobbiamo inchiodarlo per una piadina. Guarda, l'effetto delle piccole spese invece dal punto di vista mediatico è ancora più devastante, perché ti dà l'idea del ladro di polli, no? Allora tu hai uno stipendio, il consigliere regionale, lo sanno tutti quelli che fanno politica, il consigliere regionale mediamente porta a casa più soldi del deputato in ragione del fatto che ha più rimborsi a fronte di meno spese. Il deputato che viene qua a Roma e che abita fuori Roma ha comunque delle spese dovute al fatto di venire a dormire almeno due notti a settimana qua a Roma, albergo, casa eccetera. Il consigliere regionale non soggiorna, ma non pernotta mai fuori casa, può tornare a casa quando vuole perché è più vicino, eppure ha un trattamento economico migliore alla fine. Tant'è che i veri come dire, mangiatori di politica, quelli che fanno politica per i propri interessi personali più ancora, o meglio ancora, che fanno politica per il proprio stipendio e basta, ambiscono spesso, io lo vedo perché ne conosco in me diversi, ambiscono spesso più al posto di consigliere regionale che non a quello di deputato, meno fatica e più soldi. Ma infatti si diceva la provincia... 9-10.000 euro se ti prendi, ti fai rimborsare anche i 2 euro. Esatto. Allora, allora sì, è devastante dal punto di vista media, ma non lo capiscono. Questo, ieri avevamo Luca Gaffuri, il capogruppo del Partito Democratico, e dice no, ma spiegheremo tutto, la Nutella, ma sarà stato un errore, e il box, ma non lo so, la lista nozze, si è fatto rimborsare anche il bollino, l'iscrizione ai pubblicisti di 100 euro, Carlo Spreafico, l'iscrizione all'albo, e la spiegazione del capogruppo è stata: ma lui è il direttore della testata del gruppo all'interno del consiglio regionale, e ho capito, e quindi bisogna pagargli la quota. Devo dirlo anche anch'io alla mia segreteria di redazione, che tutti infatti, i 100 euro che chiede a infatti, me io, infatti io voglio che il Sole 24 Ore mi paghi l'iscrizione all'albo dei giornalisti annuali. Sì, assolutamente, assolutamente. Comunque, insieme a Oscar Giannino, noi abbiamo sdoganato, e lo voglio anche far risentire, non so se tu l'hai già sentito, il nostro amico ascoltatore contadino, che un giorno ci ha lasciato un messaggio in segreteria e che ha evocato per chi di tutti questi protesta, che cosa? La zappa, sentite. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera, e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita. Ecco, questo è il nostro contadino. No, qui in redazione, tra l'altro, ci siamo chiesti: ma dove sarà? Forse abruzzese, forse marchigiano con questa pronuncia. Però è un contadino vero, che ci ha lasciato questo messaggio di rabbia. La zappa ci vorrebbe da 7 kg. Io un periodo, non sono così radicale, però un periodo di. All'anno, un mesetto, il recupero, un mesetto. Un periodo per provare il paese reale, bucolico. Ma farebbe anche a noi giornalisti, bene a tutti. Ma come no? Un periodo bucolico, come la Fornero, che trovava la soddisfazione nell'orticello e nel campo, nel coltivare, anche se non le venivano mai i frutti. Ma no, ma anche un periodo da Pony Express, da Precario, non necessariamente, un periodo di paese reale. È un po', mi rendo conto che fa un po' Pol Pot, è un po' reale, per chi sta fuori non farebbe male, insomma. Vabbè, insomma, campi di rieducazione secondo Giglioli. No, campi vacanze bucolici. Allora ti voglio far sentire Bersani. Ma hai sentito Bersani? E li sbraniamo, ha detto qualche giorno fa. Adesso senti cosa ha detto ai giornali di destra, che peraltro ha querelato Libero e Il Giornale. E ne approfitto per dire alla stampa di destra: attenzione, noi non siamo delle mammolette, perché se pensano di fare i picchiatori con delle mammolette si sbagliano. Io ho già dato mandato a un po' di avvocati, perché il buon nome del PD non è consentito a nessuno di sfregiarlo e di toccarlo. Non siamo mammolette, però questa cosa è bella tosta, al di là delle querele. Ma guarda, a me questa, in generale, questa, mi rendo conto, siamo in campagna elettorale. Bersani ebbe la stessa reazione ai tempi di Penati, quando disse che voleva fare la class action contro chi poi ovviamente non la fece, era una puttanata elettorale. Io sono tendenzialmente contrario a qualsiasi forma di denuncia da parte dei politici nei confronti della stampa, anche della stampa peggiore. Secondo me Libero e Il giornali sono la stampa peggiore, non per le posizioni politiche tanto quanto per l'approccio proprio linguistico, culturale. Quello che però posso dire, se posso, sì, parlando 20 secondi in modo piuttosto serio, è che questa è la più schifosa, secondo me, delle campagne elettorali che io ho visto. Ma tutte le volte si dice così, tutte le volte Alessandro, io la prima che ho visto è quella del 76, che tra DC e PC. Io non vedo in questa campagna elettorale null'altro che un attacco continuo, reciproco fra persone di cui e non si parla mai di qualcosa. Ma tu nei programmi, ma a me lo dici, io sono tutti i giorni allora, che dico zero sui programmi e mi accusano, anche tu non parli dei programmi, ma qui si fa radio, cioè non è che se i giornali dove uno si può mettere lì a leggere le pagine con calma, cioè non scrivono niente dei programmi, non è che io in 5 minuti posso spiegare, che ne so, cosa ne pensa dell'ambiente il Popolo della Libertà o il Partito Democratico o l'Agenda Monte. Ma certo, c'è un cortocircuito, noi presentiamo ai lettori o agli utenti, agli radioascoltatori, delle cose che fanno audience e i politici vanno avanti a menarsi. Ingroia che mena la Boccassini, sì, Di Pietro che, no, scusami, Bersani che sprana, e vabbè, non parliamo poi di altre cose che sono arrivate. Cioè, è una roba di attacco. Mi sembra che la mattina si alzino e dicano, invece di dire cosa propongo oggi, sì, ai miei lettori, sì, chi attacco oggi? Ma certo, e poi sono dappertutto, non si capisce niente, vanno in TV, bisogna capire se quella prima si informeranno, quell'altro ha detto qualcosa magari su una radio concorrente, perché io sto andando in TV, devo andare a teatro, sì, è un casino. E che come se ne esce? Secondo me, Alessandro, la mia opinione molto, sì, molto pessimista è che questa campagna elettorale è in qualche modo il frutto di una società abbastanza incivile, cioè non è che i politici sono peggio di noi, è un paese con una popolazione che ancora evidentemente non ha una maturità politica alta e la politica è espressione di questo paese. Io non sono tra quelli che pensano che i politici siano così peggio di noi, sì, o sì, della società, anzi sono abbastanza convinto che siano abbastanza rappresentativi. Ma certo, come si dice, che non è che di un salto, non vengono da Marte, Siamo noi. Credo che se non cambiamo noi stessi non cambieremo il paese, se non cambiamo la nostra società, il nostro quartiere, il nostro caseggiato, la nostra famiglia, i nostri figli, ci è inutile che poi ci lamentiamo. 24 mattino. Che caspita pretendono di farci credere? A che servono uffici territoriali? Hanno definito Roma ladrona perché sono molto esperti di ruberie. Restituiscano soldi perché lo schifo ci soffoca. Tacciano e restituiscano. Alle 6 in punto mi sento l'inno nazionale, Fratelli d'Italia, ma di quale fratelli bastarde parliamo? Poi grazie a lei, grazie dottor Milan, si apre il sipario e mi sento Pierrot, Pulcinella, Arlecchino e Colombina. Lo spettacolo inizia. Io faccio parte pure di questa categoria e sono pensionato d'Italia, sono 31 e 47, morte che parlo, e mi sento vedere la mia pensione decurtata regolarmente. Vogliamo cambiare veramente le cose? Iniziamo da noi. Iniziamo a ribellarci quando il dentista vi dice ma con la fattura viene 20% in più. Paghiamolo quel 20% in più. Siamo un popolo di evasori, 150 milioni fottuti perché si ammuffavano gli ISE per non pagare la mensa dei bambini. Siamo un popolo di merda. Milano, scommetto i miei 10 tacchini che la sinistra perde anche queste di elezioni, perché Berlusconi è stato capace di andare a prendere il suo tacchino sul tetto, cioè Balotelli, mentre Bersani è ancora lì che scivola sui pioli della scala battendo il ginocchio e il mento, il ginocchio e il mento, il ginocchio e il mento. Il Berlusca gliela fa ancora a tutti questa volta. Mani pulite, ora di fango, bottino Craxi. Un dilettante, se paragonato ai politici di oggi, allevati nei talk show televisivi berlusconiani. Signor Milan, stanno arrivando. Sente gli zoccoli in lontananza? È la rivolta degli oppressi. Stanno arrivando. La rivolta degli oppressi. Alessandro Giglioli, hai sentito che anche qualche ascoltatore in segreteria la pensa come te? Dice: siamo noi, siamo un popolo di disgraziati. Volevo dirlo, quell'ascoltatore al mio totale l'11% degli italiani, l'11% degli italiani, sai cosa dichiara? Scrive oggi il Corriere, proprio con l'ISEE, cioè il ricometro, no? Per poi accedere a tutti i servizi sociali, zero. Ah, siamo un popolo di poveracci, o di ladri, o di imparti. Quelli che rubano l'ISEE sono i peggiori di tutti, perché rubano welfare, rubano welfare, è peggio che evadere, cioè è l'evasione al cubo, quella... io sarei veramente per fare l'esenzione magari di un euro al giorno, la mensa costano così un euro al giorno, magari dichiarano zero per accedere poi alle messe scolastiche per i figli, insomma. Comunque allora eccoci qua. Gianmarco Quadrini, festa sulla neve, 390 euro, panettoni, necrologi, un'anguilla marinata da 300 euro, un'anguilla marinata, ma costa così tanto l'anguilla marinata? E poi c'è il cibo, guarda il cibo, io ho visto anche io nulla scatena, l'incazzatura come il furto sul cibo. Qui abbiamo forse la nostra fame atavica di italiani ex poveri, no? Che diventati interessanti da pochi decenni. Elisabetta Quando Fatuzzo. Quando si parla di qualcuno che ruba sul cibo, la gente sì. Ma che poi ruba, non si sa. Elisabetta Fatuzzo, dei pensionati, un conto per 4 da 200 euro per tagliata di aragosta. Poi il cibo di lusso è una roba che fa ancora più incazzare. Lo champagne, l'aragosta, si mangiano questi. Ti ricorderai le ostriche laziali. E come no, ma soprattutto stravince Alessandro, stravince. Valerio Bettoni, consigliere UDC, si è fatto rimborsare un euro per i feltrini della sedia. No, ma non ci può. Si rovinava il pavimento. Ma non lo so, quando tu vai in servizio e sei rimborsato a piedi lista dal tuo giornale, Sì. Tu metti fuori l'euro, non so, io più delle volte quando prendo un caffè non lo metto neanche nella busta. Ma no, ma io allora, questo è il concetto di Carlo Sperafico, che dice: sono andato fuori, mi voglio mangiare un magnum, ma va bene, giusto, anche un nostro ascoltatore ci ha detto ieri: ma se io vado fuori in trasferta e c'è un pranzo e voglio mangiarmi il cornetto, e me lo mangio, e chi se ne frega, e certo che è nel conto e lo metto. Ma è, non lo so, ma è l'idea, la sensazione che fosse un bancomat, che la cosa pubblica, che i soldi pubblici fosse un bancomat, devo andare alla Coppa a comprarmi i feltrini, oppure mia moglie deve andare, metti pure, dammi lo scontrino che poi lo mettiamo alla regione Lombardia. Cioè la sensazione è questa, che funzionasse così ormai, quindi questo fa abbastanza arrabbiare. Ti faccio sentire D'Alema, una persona che secondo me ti fa un pochino arrabbiare. D'Alema sul Monte Paschi, senti, noi abbiamo fatto le cose giuste, siamo noi che siamo intervenuti bene. Noi rivendichiamo che sono state le istituzioni, non il PD che non c'entra nulla, ma le istituzioni senesi che c'entrano, guidate da uomini del PD, a volere cambiare, a volere fare chiarezza. Quindi vogliamo chiarezza, vogliamo che siano accertate tutte le responsabilità. È stato il sindaco di Siena che ha promosso questo, quindi noi rivendichiamo che la buona politica ha fatto ciò che doveva fare, il resto è fuffa. Hai capito, Alessandro? Cioè... veramente mi provochi, no? Perché a me viene sempre in mente, per carità, calmati, il nonno di un mio amico. Respira fino a 5. Prima di... No, respiro, ma non ce la faccio a non dirla. Il nonno di un mio amico che aveva fatto il partigiano, che adesso è morto, e quando vedeva D'Alema in televisione diceva: io questo, se lo incontravo in montagna, gli sparavo senza neanche chiedergli da che parte stava. Altri tempi, per carità. Adesso vedo che D'Alema, dopo aver promesso che si sarebbe ritirato se avesse vinto Bersani le primarie, non si è candidato al Parlamento, sta facendo una campagna elettorale pancia a terra. Non è perché il tagliato mi fa intuire tuttavia, Alessandro, che non abbia esattamente intenzione di ritirarsi, che stia lavorando per ministro fare il ministro, degli il commissario esteri, europeo o quant'altro esteri. Quindi ci ha un filo preso per i fondelli, come ci aveva preso per i fondelli Veltroni quando ci aveva promesso di andare in Africa. È l'idea della buona politica è intervenuta, tutto il resto è fuffa. Questa è proprio dalemiana, il resto è fuffa. Che fa abbastanza arrabbiare. Lo vedremo in me nei prossimi settimane. Esatto. Devo chiudere facendoti sentire Luna Berlusconi. Te la sei persa da Daria Bignardi? L'hai sentita? Sadico, sei un uomo sadico. No, lo so. Ma l'hai sentita o no?

l'Italia si desta. Ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo qua alle 8:17 minuti. Voglio salutare il senatore Carlo Giovanardi, il Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuto, Giovanardi. L'abbiamo chiamata perché c'è stata questa sentenza della Cassazione che riguarda la legge Fini Giovanardi, quindi una delle sue leggi per l'uso per la questione della droga. Allora, la Cassazione ha stabilito che l'acquisto collettivo per l'uso di droga non è un reato penale. Credo che lei abbia colto la sentenza a dire: beh, è la prova che non mandiamo in carcere nessuno con questa legge. Ribadisce questa posizione? Esattamente così. L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo, perché a New York, a Washington, in Francia, se uno viene pescato con uno spinale in tasca va in carcere. L'Italia viceversa, con la nostra legge, ha ribadito che il consumatore di droga, chi ne fa uso esclusivamente personale, è un malato, una vittima che va curata, lo spacciatore invece è un criminale che va perseguito. E la Cassazione ha, con questa sentenza di cui leggeremo la motivazione, stabilito che in casi complessi che avevano fatto discutere anche in passato, quando la droga veniva comprata da uno per tutti, non da ogni singola persona, se in questo caso si tratta di consumatori ad uso personale o se c'era lo spaccio. La fattispecie dello spaccio. Cioè, facciamo un esempio: se io vengo beccato con 20 spinelli, ma riesco a dimostrare che stavo andando da una decina di amici per... Guardi, due esempi, così ci capiamo. Se due persone, un uomo e una donna, per esempio, una sera si trovano a cena, no? E uno ha comprato per i due gli spinelli o la cocaina, è difficile parlare di spaccio, evidentemente un uso personale di gruppo. Sì. E come è successo in passato invece in una gita scolastica, viene pescato uno con uno zaino stracolmo di droghe e dice: ma io l'ho preso per tutti perché lo devo distribuire a tutta la scolaresca, è difficile pensare in questo caso a un uso esclusivamente personale. Ma chi è che deve decidere? Il magistrato. Certo, beh, non è personale, però potrebbe essere una cosa di gruppo, l'ho portato per così fare per stare insieme e distribuire. La Cassazione ha detto che se lo ha comprato con i soldi di tutti, perché il giorno prima i compagni di scuola, ognuno gli ha dato i soldi per comprare la sua dose, in questo caso la Cassazione, immagino leggeremo la motivazione, ha detto che è un uso esclusivamente personale delle persone che lo hanno. E quindi non è un reato penale. Ma questo dimostra per l'ennesima volta la malafede, la pretestuosità delle polemiche che vengono da sinistra sulla legge, che continuano a dire che con questa legge vanno in galera i consumatori, mentre, come è noto, le statistiche sono lì a dimostrarlo, è diminuito il numero di tossicodipendenti in carcere, non è aumentato, e se fosse applicata la legge 2000 di loro oggi sarebbero in comunità, ma non ci sono a curarsi perché le regioni non pagano le rette, perché fino a 6 anni passati in giudicato, cioè reati fino a 6 anni compiuti da tossicodipendenti, secondo la nostra legge non si sta in carcere. Sì. Però mettiamo al caso che io vengo beccato con 10 spinelli e non riesca a dimostrare invece che li sto portando, che ne so, a un insieme di persone. Rischio l'accusa di spaccio. No, però. Scusi, il giudice, secondo la nostra legge, non soltanto deve valutare la quantità, si chiama il principio attivo, no? Sì. E quindi se effettivamente uno ha in tasca un pacchetto di sigarette o con lo spago c'ha 20 stecche legate nascoste sotto la giacca, ma non basta, perché secondo la legge, anche superando una determinata quantità, il giudice sulla base del frazionamento della sostanza, dei comportamenti, deve decidere se sono uno spacciatore. La convinzione che si tratti di uno spacciatore. Senta, ma non è che si risolverebbe, perché sa, per esempio ieri i radicali sono tornati a chiedere questo, si risolverebbe tutto magari con la legalizzazione delle sostanze stupefacenti? Perché lei, come ha detto contrario? Ieri, l'Europa non se ne parla neanche, perché vorrebbe dire che dallo 0,1 di cronici che oggi abbiamo in Italia, 0,1, che è un problema drammatico, sono 150.000, è un 2-3% di persone che hanno a contatto con la droga, si passerebbe a un 20-30% di persone che hanno contatto con però magari si toglierebbe un po' di soldi alla criminalità organizzata. Sì, toglierebbe altre centinaia o migliaia di vittime di incidenti stradali, di incidenti sul lavoro, di persone che sotto l'effetto delle sostanze, come è noto, distruggono i loro clienti, le loro famiglie, anche nelle crollano sotto l'effetto. Secondo i dati ci sono 4 milioni di assuntori regolari in Italia di hashish o marijuana. No, quindi regolari no. Allora, beh, regolari, insomma, se la procurano regolari, comunque, se la procurano. Abbiamo lo 0,1% 1%, dicono, cioè 0,1% della popolazione, detto sono 150.000 che hanno problemi seri di tossicodipendenza, di dipendenza dalle droghe. Poi abbiamo persone che magari una volta nella vita, come anche qualche politico famoso ha detto, ma io una volta ho fumato uno spinello, se mettiamo nelle statistiche queste persone arriviamo al 2-3% della popolazione. Ma se... che vuol dire che il 97% della popolazione italiana non ha mai avuto contatto con le persone. Ma secondo lei questo perché? Perché si fa fatica? Perché uno deve andare da un criminale per procurarsi? Per fortuna, ormai con le neuroscienze, andiamo nelle scuole, andiamo nelle società sportive, si può far vedere i danni al cervello che provoca la droga. E allora a maggior ragione lasciamo la libertà se uno vuol farsi del male. Il problema è che fa male anche gli altri, perché la normativa che abbiamo inserito, per esempio, nei controlli degli incidenti stradali o sul lavoro, ha dimostrato che abbiamo dimezzato la mortalità di incidenti stradali, che può capitare a tutti, che erano causati, sono causati prevalentemente da persone che guidano ubriache sotto le... Però mi scusi, senatore Giovanardi, se il principio abbiamo stabilito che se uno vuole procurarsi uno spinello ce la fa, senso va e ma se anche lo... se uno vuole rapinare o fare un furto lo fa. Quindi uno il danno a sé, ad altri, se vuole, se lo fa. Però l'argomento di togliere soldi all'andrangheta, alla camorra... Mi scusi, quello della 'ndrangheta, sì, infatti si favorisce la 'ndrangheta e la camorra se si legalizzasse. Perché aumenta di smisura il numero dei consumatori. Allora facciamo andare la droga anche ai bambini? Ma no, ma uno non va più dallo spacciatore a prenderla. No, se si legalizzasse... No. Consentiamo alla 'ndrangheta e alla camorra di promuovere la vendita delle sostanze che ammazzano la gente anche davanti alle scuole? Ma no, non sarebbe ma di fronte a una legalizzazione non sarebbe più in mano alla 'ndrangheta, al mercato nero, ma sarebbe tutto legalizzato. Chi ha detto che non è in mano alla 'ndrangheta? Se sembra un mercato, lei pensa che la cocaina o l'eroina potrebbe essere distribuita? Quando si parla di legalizzazione, anche loro pensano di somministrazione controllata al tossicodipendente. No, ma non per l'eroina o la cocaina, parlano delle cosiddette droghe leggere. Ma cioè le cosiddette droghe leggere intanto non sono leggere, perché i principi attivi adesso causano dei danni cerebrali che sono importanti per la salute delle persone. Ma guarda che noi abbiamo fatto in questo paese, per fortuna, delle leggi che anche per quanto riguarda il fumo proibiscono di fumare nei bar, proibiscono di fumare negli ospedali, ed è stata una delle riforme meglio accolte dalle persone. Però non è che vietano. Perché fino a 7 anni fa la gente moriva di cancro perché il collega d'ufficio o nei ristoranti o nei bar uno era costretto ad ammalarsi di tumore per il fumo passivo. Sì, ma mi scusi Giovanardi, quella è una proibizione, come dire, del costume di fumare. Ma no, costume, non si può, non è... Sì, ma non è che si può, si vieta il fumo tout court. Ma adesso uno se lo spinello a casa sua se lo vuole fare, l'ho detto prima che non è penalmente perseguito. E cosa deve fare però? Deve andare da un criminale a procurarsi... Deve andare? Da un criminale a procurarsi, da uno spacciatore, uno che da un mercato sotterraneo. Uno che del cianuro, delle sostanze in farmacia, qualunque farmaco che faccia male alla salute, uno non può comprarlo legalmente in Italia se non ha una ricetta medica. Il whisky sì, invece. Lo spinello, i principi attivi, se uno deve curarsi, è legale in Italia. Se ha, per ragione medica, ha bisogno di curarsi, può comprare prodotti che sono sulla base di sostanze della cannabis, lo può fare con ricetta medica. Questo sì. È un po' difficile. Eroina o principi attivi, diciamo per diletto, perché vuole drogarsi, giustamente questo è proibito. Deve andare... è proibito. Il consumo si può fare, ma uno poi deve entrare in contatto con un criminale per se poter... viene poi pescato, naturalmente, giustamente, sotto gli effetti della droga, mentre mette a rischio la vita sua e degli altri, vado a parlare con i familiari delle persone che sono rimaste uccise, le persone che guidavano con le sostanze ed erano incapaci di controllarsi. No, ma un bellissimo film che consiglio di andare a vedere adesso, Flight, per vedere anche la mentalità con cui l'ho visto, con Denzel Washington, della droga e delle tossicodipendenze e dell'alcol. No, l'ho visto con Denzel Washington, è un bel film, effettivamente. Perfettamente, non è che sia un film molto dolce, diceva poverino, si ubriacava, poverino, era tossico. Appunto, peraltro lei fa l'esempio che volevo dire io, l'alcol invece, il whisky, uno lo compra normalmente e fa danni molto più forse. Infatti c'è tutta una normativa che io ho sostenuto, perché per limitarne l'uso nelle ore notturne, per essere spietati nel momento in cui uno sale in un'auto e viene trovato ubriaco, va a casa a piedi e viene sequestrato l'automobile. E perché c'è questa differenza? Cioè, perché uno può prendere il whisky e mettersi al volante e invece lo spinello deve... Non c'è differenza. C'è differenza. Sono due cose. Una è storica, perché dalla messa al mattino col vino della nostra cultura, in cui la sostanza, il vino, l'alcol, se preso in modiche quantità fa bene alla salute, non fa male, fa bene alla salute. È l'abuso dell'alcol che fa male. mentre invece le sostanze oggi, come qualunque medico può spiegare, e le neuroscienze stanno già anche uno spinello di hanno dei danni, danno dei danni anche, non c'è la modica quantità della cocaina o la modica quantità dell'eroina. Sono sostanze che specialmente nei giovani ti fanno venire i buchi nel cervello, cioè ti creano dei danni permanenti. Allora l'ordinamento non è che può permettere al ragazzino di rovinare la sua vita, rovinarsi il cervello, rovinarsi il futuro, perché qualcuno mette su un negozio in cui... Ah, però sulla questione dell'alcol, però la differenza sull'alcol, c'è un pochino secondo lei di ipocrisia nel trattamento? No, cioè... l'ho detto che il vino fa bene, che un uso moderato del fa vino bene. A tavola fa sangue. Bene alla salute, il vino fa sangue, infarto, quindi ha delle quantità, ha delle particolarità positive, sì. Anche l'acqua minerale, se uno beve 4 litri di acqua minerale, rischi di morire. Vabbè, chiaro, è sempre la quantità. Senta, io per concludere volevo chiedere questo, ma è vero che lei ha fatto una dichiarazione, che c'ha lei con Ilaria Cucchi? Ha fatto una dichiarazione dicendo che si è candidata sfruttando il processo, e guarda quello che è capitato, sta capitando. La lotta che c'è fra l'accusa e Ilaria Cucchi. Ilaria Cucchi accusa l'accusa, cioè i pubblici ministeri, secondo lei, sì, non porterebbero avanti adeguatamente il processo, perché i pubblici ministeri hanno dimostrato tramite le perizie che il fratello era già stato ricoverato 17 volte all'ospedale precedentemente per percosse lesioni e fratture subite dai suoi amici spacciatori. E la famosa frattura di cui capito, parla, ci sarà una differenza tra uno spacciatore che picchia e le istituzioni, il corpo dello Stato, dei... è quello che dico io fin dall'inizio, poiché tre poveri agenti di custodia sono massacrati da 4 anni perché dappertutto è stato detto che da loro che è stato massacrato di botte. Perché non è così, e il processo sta dimostrando il rovescio, cioè che è morto, come ho detto fin dall'inizio, perché i medici, lui era debole, e aveva una serie di patologie, non sapeva gestirsi, ha fatto lo sciopero della fame e invece di curarlo lo hanno lasciato morire, pigliando per buono la volontà di una persona che non sapeva gestirsi. Cioè non ha subito percosse secondo lei in carcere? No, secondo me basta leggere non solo le perizie iniziali del barello dell'accusa, ma quella dei 6 super periti che è stata depositata 20 giorni fa, arrivano a queste conclusioni. Non c'è nessunissima relazione fra la morte ed eventuali, perché nessuno l'ha dimostrato, percosse. O se su questo poi per l'ennesima volta in Italia si costruisce una carriera politica e la sorella diventa capolista di un partito, sono 2 anni che lo dico, era evidente che finiva così. Cioè secondo lei Ilaria Cucchi sta sfruttando la morte del fratello? Cioè, scusami, mi sembra talmente evidente che la carriera è una tragedia, ma è morto continuo a dire, ma è una tragedia, fratello, è morto suo fratello. Infatti suo fratello è una vittima, è una persona malata che ha tentato più volte di recuperarsi, che aveva una vita difficile da tossicodipendente, da spacciatore, è una vittima che non è stata curata. Da questo che la provincia di Roma che volesse intitolare le scuole, dandolo come esempio ai giovani, non ci sto, per me è una cosa inammissibile. È la storia di Carlo Giuliani è stato una vittima, certo è morto, poveretto, durante gli scontri a Genova. Carlo Giuliani è un eroe a cui intitolare le sale del Parlamento? No, perché quando è morto stava per ammazzare 3 carabinieri. Capito, ma secondo lei quindi Stefano Cucchi non è morto perché durante me, il suo arresto i giornalisti, mi scusa, leggessero le carte, se lei legge la perizia della, non della difesa, dell'accusa, e quindi i lividi la perizia dei 6 super periti a cui la Corte si è rivolta perché con le rimostranze dei familiari della parte civile ha fatto fare un'altra super perizia a 6 dei maggiori e importanti medici italiani, è stata depositata 20 giorni fa, ne hanno parlato tutti i giornali italiani. Sì. Ecco il problema, domandiamoci anche queste 3 povere famiglie, queste 3 poveri cristi, loro che pagano 1200 euro al mese, il calvario che stanno vivendo su un'accusa costruita sul nulla, i 3 agenti di custodia. Sì, va bene, intanto la ringrazio, Giovanni, di mandare in pubblicità. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 8:35 minuti e voglio dare il buongiorno al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Buongiorno sindaco, eccoci. Buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, qui c'è da capire, intanto 2 giorni fa, oggi funzionano gli autobus più o meno, perché so che i problemi di trasporto pubblico a Napoli ci sono, ma è scongiurata almeno la benzina, oggi come va? Ma l'altro giorno noi abbiamo avuto un disservizio sul rifornimento del gasolio che è durato in realtà 3 ore, adesso si è scoperto, diciamo, dopo i tagli pesantissimi al trasporto pubblico, che c'è una sofferenza, ma in realtà noi è 1 anno e mezzo che abbiamo problemi enormi come anche altri comuni. Quella mattina c'è stata una cosa un po' strana che stiamo verificando, perché in realtà non c'era nessun problema particolare, tant'è vero che dopo 3 ore i pullman hanno ripreso a circolare, ecco, normalmente, però io, sindaco, e da ieri circolano, mi sono visto, infatti mi sono visto il suo video che lei ha postato su Facebook ieri, lei ha parlato di qualche manina che ha chiuso le pompe della benzina, ha parlato di sciacalli, avvoltoi, ha parlato più volte di manina che è intervenuta, ci dica, perché dire, fare questa accusa generica, ci dica che secondo lei... Ma non è generica, guardi, hanno incominciato all'inizio della campagna elettorale, hanno provato con i rifiuti. Lei lo sa perché ne abbiamo parlato più volte da quando sono diventato sindaco, a Napoli non c'è più emergenza rifiuti, all'inizio della campagna elettorale hanno cercato con qualche tentativo subdolo di farla ritornare, abbiamo quindi stretto le cinghie con un presidio H24 e scongiurato, adesso col trasporto pubblico. Io qui voglio però fare una riflessione, se posso. Sono mesi che noi diciamo che i tagli pesantissimi ai comuni avrebbero prodotto dei disagi gravissimi. Questi tipi di inconvenienti derivano proprio da lì, ma con orgoglio voglio anche dire che pur avendo ereditato una situazione drammatica da quando sono sindaco di Napoli, noi come amministrazione finora, speriamo di farcela, non abbiamo fatto andare in fallimento un'azienda, non abbiamo tagliato un posto di lavoro né messo una persona in cassa integrazione. Ma quella manina lì di chi sarebbe però, quella manina lì che lei ha accusato? Guardi, stanno facendo la campagna elettorale sulla città di Napoli, questo è molto evidente, basti lei fa il giornalista, basta che guarda un poco l'attenzione che c'è stato sulla nostra città da importanti settimanali nazionali, mezzi di informazione, pure il sindaco di Napoli non è candidato. Evidentemente questo tipo di amministrazione che contro gli interessi mafiosi, contro gli apparati di potere, i partiti occupavano per esempio i CDA delle società partecipate, tanto per fare un esempio, nelle società di aziende di diritto pubblico erano state in parte privatizzate, noi invece abbiamo puntato sul pubblico, abbiamo tolto i partiti dai CDA e questo ovviamente dà fastidio, in campagna elettorale ci stanno un po', come dire, di vendette che si vogliono consumare, ma noi stiamo molto attenti. Cioè, voglio dire, criminalità organizzata che ha chiuso, ha ordinato a qualcuno di non rifornire il gasolio. Questo lo sta dicendo lei, sui rifiuti è anche quello. Qua credo che sia qualcosa di più squallido, c'è stato anche qualcosa interna all'azienda che stiamo verificando, perché è stata la sera prima mandata una comunicazione allarmistica, io sono stato avvisato per esempio la sera tardi e pur non avendo competenza ci siamo attivati, competenza diretta sulle pompe di benzina, il sindaco fa tante cose ma non fa ancora il rifornimento diretto dei mezzi, ci siamo informati, in realtà ci sono stati 3 ore di disagio, eppure quei 3 ore di disagio per i quali ovviamente io mi scuso anche non avendo responsabilità con i cittadini, mi arrabbio invece con gli avvoltoi, perché gli avvoltoi, quelli là, insomma, vogliono sulla pelle dei cittadini consumare degli interessi personali. Sì, ma io non ho capito, sindaco, se lei ce l'ha con qualche manina all'interno della società del comune che gestisce il trasporto pubblico, o se il fornitore che doveva dare benzina, cioè la manina, dove sta? Stiamo verificando, io purtroppo non faccio più il magistrato, come lei sa. Purtroppo, sarebbe partito lancia in resta. Però il sindaco ha comunque delle possibilità per investigare, nel senso, perché troppe cose strane, ho detto prima sui rifiuti, adesso sul trasporto, stiamo un po' mettendo insieme alcune cose, appena le cose saranno più chiare le renderemo pubbliche. Senta, anche Saviano ha twittato che bella la stazione senza treni, ma ci vuole raccontare il rapporto vero che c'è tra lei e Saviano? Perché si parla di litigi, di delusione reciproca, insomma di... Guardi, io Saviano faccio da 1 anno e mezzo il sindaco a tempo pieno e mi dispiace, pur avendolo invitato molte volte in città, chiedendogli un suo contributo concreto, non l'ho mai visto. Ha preso questa abitudine anche lui con l'inizio della campagna elettorale, più o meno in concomitanza con gli attacchi che fanno i partiti dell'opposizione, in particolare il PD, a interloquire anche lui. È una legittima critica, però io gli ho detto questo, un momento così difficile in una città come Napoli, con tante cose anche importanti che stiamo facendo, contro la camorra e contro la corruzione, a me avrebbe fatto piacere avere Saviano al mio fianco. Lui ha deciso da oltreoceano, senza conoscere i fatti, ogni tanto ad attaccare pesantemente con l'autorevolezza che gli è propria, e questo non aiuta la città. A me farebbe piacere avere Saviano, come tanti altri cittadini lo fanno ogni giorno, al nostro fianco. Questo non accade, fa anche lui campagna elettorale, non fa niente. Non fa niente. E lei soprattutto se l'è presa anche col PD, sono quelli gli avvoltoi e sciacalli a cui si riferiva a loro, cioè quelli che, leggo, ho sentito nel suo video messaggio, che hanno lasciato la città in questo stato, e sono il Partito Democratico che ha governato prima di voi. Ma io vorrei costruire, in parte lo stiamo con alcuni anche facendo, un buon rapporto con il PD a livello nazionale, che è un grande partito. Io fotografo una realtà, il PD ha governato per 20 anni la città di Napoli, ha lasciato 1,5 miliardi di debito e 850 milioni di disavanzo, una tragedia, ci ha lasciato tutte le aziende, compresa quella dei trasporti, in una situazione fallimentare, compreso il comune. Noi lunedì in Consiglio Comunale abbiamo approvato il piano che ha salvato Napoli dal fallimento. A quel fallimento ci ha portato soprattutto l'apparato di potere del PD napoletano, quindi questa è la fotografia della realtà, quindi sentire quelli là che hanno distrutto una città pontificare sui servizi che oggi ci sono in città fa rabbia, mentre invece c'è molto rispetto da parte nostra ovviamente per i disagi dei cittadini, che sono i disagi di tutti noi. Quando parlo di avvoltoi mi riferisco in particolare a questo tipo di ceto politico. Sì. Sa che molti la rimproverano di non occuparsi abbastanza di Napoli e fare campagna elettorale. Lei ha già detto no, sono qui a Napoli a fare il sindaco, però lei sta facendo anche campagna elettorale per Ingroia. Le chiedo questo, l'ha vista questa polemica e da ex magistrato questa polemica che ha tirato in ballo Falcone, Borsellino, Boccassini, un po' tutti? È una cosa un po' squallida a mio modo di vedere, no? Voglio prima fare una premessa che sì, io sostengo convintamente Ingroia, ma fino adesso, proprio perché preso dai problemi di Napoli, non ho fatto ancora un comizio o una manifestazione elettorale, quindi penso che ho il diritto di poter esprimere anche da sindaco la mia preferenza elettorale, ma sono impegnato H24 su Napoli. Sì, non mi è piaciuta tutta questa questione che è montata, devo dire c'è stata un'invettiva violentissima del procuratore aggiunto di Milano, però complessivamente se le devo dare... Se le devo dare un mio giudizio personale, mi auguro che si interrompa definitivamente questa dialettica e questa diatriba e questo confronto su Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, che sono due patrimoni dell'umanità. Quindi su questo io mi auguro che rimangano fuori dalla campagna elettorale. Anche lei è d'accordo che pensa come Di Pietro, l'ha detta a questi microfoni, oggi Paolo Ferrero, sul manifesto che Monti e PD abbiano già fatto un accordo o siano pronti a fare un accordo post-elettorale? Aggiungerei anche Vendola. Secondo me c'è l'accordo... Vendola con... e Monti. Vendola Monti... oggi scrive su Monti, è il mio avversario politico ancora sul manifesto. È campagna elettorale. In realtà io sono convinto a scommettere che c'è già un accordo Monti-Bersani-Vendola. L'unica variabile potrebbe essere un risultato molto positivo di Ingroia con Rivoluzione Civile, che potrebbe spostare gli equilibri più verso sinistra, ma altrimenti l'accordo già è scritto. Ecco, l'unica variabile. In realtà vi accusano di voler far perdere il centro-sinistra, cioè togliere voti alla coalizione Bersani-Vendola, che per il momento, al di là di accordi, è la coalizione, è questa, Bersani-Vendola. Ma in realtà è il contrario. Allora, se uno vota Bersani e quindi Vendola o Monti, già sanno che si va in quella direzione che ho detto prima, cioè un governo Bersani-Monti-Vendola. Ma questa è, questa è un'ipotesi sua. Questa è un'ipotesi. Allora, io penso che il voto utile, se vogliamo spostare finalmente un po' gli equilibri del nostro paese, non continuare quindi per capirci con il governo Monti dell'ultimo anno e mezzo, votare Rivoluzione Civile Ingroia è un voto utile, perché uniti ai voti poi dopo le elezioni del PD con Bersani potrebbe portare alla formazione di un governo con lo spostamento degli equilibri verso i lavoratori, verso i diritti costituzionali, i diritti sociali, verso un'uguaglianza sociale più forte. Se questo non accade, mi pare già scritta l'alleanza, lo dicono del resto in qualche modo al di là delle scaramucce elettorali. Su questo, se vogliamo, se questo ne sono assolutamente sicuro e sono pronto a scommettere che accadrà questo, se no ci sarà un voto utile per Ingroia. Quindi l'idea della desistenza, che poi non si è concretizzata, cioè dire non correte voi di Rivoluzione Civile in varie regioni, perché nelle regioni chiave, soprattutto una, la Campania, rubate i voti, ci togliete i voti al centro-sinistra. Ma una lista che si chiama Rivoluzione Civile come potrebbe mai fare desistenza da apparati di potere? Semmai deve fare resistenza. In Campania, per esempio, raggiungere il quorum al Senato sarebbe un segnale forte, perché significa portare, ecco, per esempio, per fare un esempio concreto, senatori che finalmente si occupano dei comuni. Io ho molto apprezzato per esempio ieri le parole di esponenti del PD come appunto Angelo Rughetti e Gaetano Del Rio, che hanno detto quello che ha fatto il governo Monti poi produce i tagli ai servizi, quindi io so per certo che candidati in Rivoluzione Civile in Parlamento porterebbero le battaglie per i comuni e per i cittadini e per i servizi essenziali. Quindi io lo vedo un voto utile, quindi non è affatto un voto che va a sottrarre consenso a Bersani o al centro-sinistra. Le ultime due domande sono queste. Tornando alla questione pubblica degli autobus, è vero, perché si è sparsa questa notizia, che gli stipendi di Napoli Servizi sono a rischio o sono garantiti? Ecco, un'altra cosa è accaduto ieri mattina. Ieri mattina si era sparsa questa voce, che dice lei, degli stipendi che non sarebbero stati pagati. Invece i bonifici erano già partiti, gli stipendi sono stati pagati. E il prossimo mese, cioè il prossimo mese, i prossimi, cioè c'è questo rischio? Ci sono? Eppure qualcuno aveva infiammato, rispondo subito, qualcuno aveva sparso questa voce falsa e tendenziosa. No, gli stipendi saranno garantiti, ed è un anno e mezzo proprio che noi siamo stati su questo filo del rasoio. Finalmente siamo usciti fuori dal tunnel con il piano approvato al Consiglio Comunale. Da febbraio in poi non avremo più rischi stipendi come è stato finora. Pensi, governare un anno e mezzo ogni volta rischiando di non pagare gli stipendi è stata veramente una tragedia, che però abbiamo superato. L'ultimo commento: stamattina la notizia, Maradona ha chiuso positivamente la sua battaglia col fisco, dice il suo avvocato, non deve più 40 milioni di euro, è un cittadino libero, può tornare in Italia. Pare che Maradona abbia chiuso. Lei lo inviterebbe a Napoli? Sarebbe contento di vederla a Napoli, Maradona? Ma lo invitiamo per la vittoria e lo scudetto del Napoli, speriamo. Napoli sta andando forte, sarebbe una bella cosa. Maradona a Napoli dopo tanti anni con una vittoria del Napoli. Quest'anno, Cioè di lo scudetto quest'anno. Di quest'anno, no, tra 5. Questo. Speriamo. Il pronostico del sindaco De Magistris. La ringrazio, buona giornata. Grazie, una buona giornata. Maradona a festeggiare lo scudetto del Napoli. So già a Napoli toccano Warner, si toccano da tutte le parti. Bisogna anche sbilanciarsi così. Allora, 800240024, prima abbiamo avuto Carlo Giovanardi a parlare di droga, la legge sulla droga, poi ci ha detto anche qualcosa di interessante su Stefano Cucchi, poi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e ora voi ascoltatori diteci un po' quello che pensate. Abbiamo parlato oggi anche degli rimborsi dei consiglieri in Lombardia, un euro per i feltrini rimborsati, io non ci sto, pensavo con gli 11 euro di bottoni rimborsati in Liguria ad aver toccato il fondo, ma un euro per i feltrini da mettere sotto la sedia, questa forse è anche peggio della Nutella. Carmen da Napoli ci ha chiamato proprio. Carmen, buongiorno. Buongiorno. Senta, saluto tutti innanzitutto. Sì. Volevo dire, il sindaco non ha tutte le colpe di ciò che succede a Napoli, perché è così, non si può dire che lui abbia tutte le colpe. Però ribadisco, i pullman non funzionano, ne gira uno su tre, la spazzatura non è vero che è sparita, non ci sono spazzini, Napoli non è spazzata, è raccolta la spazzatura dai contenitori. Sparita, Carmen, non è che dice che è sparita, però lei è d'accordo quando il sindaco dice che è finita l'emergenza, cioè quei sacconi, quei cumuli. Senta, di rifiuti. Tutto è relativo, sì. Certo, al peggio non c'è limite, però la spazzatura non è è relativamente sparita, ma non ci sono spazzini, le strade sono lerce. Io sono vecchia, la città così non l'ho mai vista. La città sporca, lei. Sporca, sporchissima. I contenitori. Quando vedevamo quelle foto con i rifiuti che arrivavano al secondo piano delle case, no, forse era anche non c'è un po' più sporca. Così non c'è più. Però le dico che la spazzatura è stata trasferita in periferia, sulle strade di comunicazione, sugli svincoli, addirittura sugli svincoli della tangenziale, non si spazzano da mesi, da anni, forse da anni. Quindi questa è la sua testimonianza. La ringrazio, sì, Carmen. Io ringrazio lei. Grazie, vorrei andare a Bergamo da Claudio. Buongiorno, Claudio. Buongiorno Milan, sì. Sono Claudio. Dica. Volevo porre una domanda al sindaco De Magistris. E che però non le può rispondere. Si è scagliato contro il PD, che ha lasciato un forte debito al comune di Napoli. Si è scusato con i cittadini a proposito del disagio relativo ai trasporti. Sì. Ma io ho sentito una notizia alla radio, qualche ieri o l'altro ieri, che dove si sosteneva che il 70% dei cittadini napoletani non pagano il biglietto. Sì. Ma non è che c'è qualcosa che non funziona lì, perché io non so se questa percentuale corrisponda al vero, ma sicuramente non funziona qualcosa se il 70% delle persone non pagano un biglietto. Mi domando se è il caso di scusarsi con i cittadini o se invece di fare qualcosa di un po' più concreto, perché è ovvio che un'azienda che non ha gli introiti necessari per poter far funzionare correttamente un servizio, non può andare certamente bene, lascia dei debiti. Non può andare questo bene. Mi sembra un po' il concetto. Va bene, va bene. La ringrazio, Claudio. Che dobbiamo dire? Se non ci sono. Sì, ci vorrebbe i controllori, la gente che controlla, che bisogna far pagare il biglietto. Perché non si può fare come all'estero, in varie città europee, molto molto all'avanguardia, e qui in Italia non si fa, che banalmente si mette il conducente a controllare il biglietto una volta che sale. A Londra non si sale neanche sull'autobus, a meno che uno non faccia un'irruzione, perché appena entri devi pagare il biglietto al conducente. Quindi se ce l'hai paghi, se no no. Luca da Macerata, buongiorno. Buongiorno, sì. Salve. Innanzitutto vorrei dire, non ho detto alla sua collega, volevo dissentire da quello che ha detto Giovanardi, una cosa allucinante, soprattutto sulla cannabis. Su cosa? Comunque, cioè che cosa? Sul fatto che l'alcol non fa male, le cose che lui dice in tema serpelloni, sul fatto che con la cannabis si passa all'eroina, quant'altro che... Sì, questo non l'ha detto, ha detto che l'alcol in moderata quantità fa bene, mentre invece anche un solo spinello fa male. Però lo dice perché, le assicuro, io me ne occupo di questo argomento, diciamo, quindi conosco le dichiarazioni di Giovanardi. A parte io sono stato a Napoli ultimamente, in quest'anno 5-6 volte, e come l'altro ascoltatore è vero, non c'è nessuno che paga il biglietto. L'autista, gli faccio, ma come faccio a timbrarlo? La macchinetta è rotta, dovrei metterti una firma. Ovviamente poi la firma non me l'ha messa, quindi ho viaggiato gratis. Questo non vuol dire nulla, però da me se vado senza biglietto prendo 50 euro di multa. A Napoli tutti fanno come vogliono, allora, anche con le auto in 4, 5, 6 persone, contromano, destra, sinistra. Quindi insomma, qua napoletani dove siete? Qua il senso civico venite massacrati. Prima l'ascoltatore da Bergamo, l'ascoltatore da Luca da Macerata, insomma massacrano il senso civico dei napoletani per quel che riguarda il modo di comportarsi. Insomma, nessuno paga il biglietto. Io non so se il 70% non pagano il biglietto, non so se questa sia la percentuale. Comunque questo dicono gli ascoltatori, almeno, che ci hanno chiamato 800 24 00 24. Vorrei sentire Mario, da dove ci chiama? Buongiorno, da Firenze, dica Mario. Voglio dire, riguardo le spese pagliuzze, stuzzicadenti, ma nessuno riguarda questi scontrini, no? Quindi io porto la mia... Li guardano e come? Infatti ora è tutto sui giornali, un euro per i feltrini, un euro per... Quindi prendono tutto, ma sì, dai, butta qua e prendiamo tutto. Metti dentro, che sono tutti per questioni istituzionali. E lei che considerazioni può fare, Mario? Mi stupisco di queste cose, ancora riesco a stupirmi, non so come fare. Lei ancora si stupisce, è un idealista, lei ancora si stupisce, incredibile. Mario, riprenda il contatto con la realtà delle spese dei consiglieri nelle regioni italiane. Ovviamente la mia è acida ironia, perché anch'io tengo le mani attaccate così al microfono, invece che al volante, così al microfono. Allora vi ringrazio, con Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè. Vi do l'appuntamento al lunedì prossimo alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Un parlamentare che partecipa a tutte le sedute di commissione, apre un ufficio, riceve gente, mi creda, ha tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Tutti i parlamentari stanno 13 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Agreco, freddo e energia a noleggio. www.agreco.it con la K. Vi ha presentato 24 mattino.